E lì indubbiamente tutti erano un po' sul qui vive, un po' il trapasso è stato tragico e immediato perché per un incidente e non è stato niente insomma preparato e purtroppo mi ricordo, io ero l'unico che avevo una procura e potevo firmare, gli altri nessuno c'aveva niente. Comunque siamo andati avanti anche con le banche, ma le banche non ci davano niente. Addirittura io avevo delle cambiali firmate Enrico Mattei, che la Banca di Roma ce le rimandò indietro. Non c'era fiducia, insomma, capito. Per i Merloni è il momento più duro. Fabriano in lutto, tutta la regione orfana di un imprenditore, di un leader amato e rispettato. Tra dolore e sconcerto i figli di Merloni si riuniscono già nelle prime ore successive alla tragedia e decidono di andare avanti nonostante l'ostilità delle banche. Francesco Merloni viene eletto all'unanimità presidente della società capogruppo, ma il venir meno dell'autorità paterna sembra dividere l'unità della famiglia. La fabbrica di bilance, fondata nel 1930 da Aristide Merloni, è diventata un complesso di aziende internazionali affidate oggi alla terza generazione della famiglia. La globalizzazione, la crisi finanziaria però hanno messo gli eredi di fronte a una sfida, che è la sfida di questi giorni, una sfida forse ancora più grande di quella che è stata intrapresa dal fondatore. E allora che cosa resta del successo di Aristide Merloni? Qual è la sua eredità? Continuiamo con la storia dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Nicoletta Picchio, giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa di economia. Ecco, allora, cosa resta di questa avventura dei Merloni? Resta molto, perché resta un grande gruppo che ha ben 4.300 persone che lavorano qui negli stabilimenti italiani, un gruppo che ha le previsioni di fatturato di fine 2013 sono di 2,7 miliardi di euro, certamente. Ma, sì. Sì, ma dopo la morte di Aristide, che cosa è cambiato nel capitalismo familiare? Perché questo è familiare, ma insomma… Penso che la famiglia Merloni sia comunque un esempio positivo di capitalismo familiare, perché è anche un capitalismo familiare illuminato. Vittorio Merloni ha quotato l'azienda nel 1987, ha inserito manager, oggi c'è Marco Milani che è presidente EAD. Indubbiamente l'azienda fa i conti con tutte le difficoltà della congiuntura, con la difficoltà di un mondo che cambia, con una competizione globale che è sempre più agguerrita. Ma questo secondo te significa spostare gli investimenti dall'Italia o in Italia ci saranno ancora investimenti con questo nuovo accordo? Ci sono investimenti, questo infatti è un punto centrale di importantissimo dell'accordo, tant'è che per esempio anche la FIOM poi alla fine ha aderito a questa intesa. Sì, e questo è un elemento assolutamente importante che inizialmente era partita come separata. Quindi cominceranno da gennaio 83 milioni di euro di investimenti nel triennio 2014-2016 che si aggiungono ai 120 milioni che l'azienda aveva già fatto precedentemente. Quindi l'impegno in Italia c'è. Sì, e quindi il destino dell'azienda non si separa dalle Marche, perché abbiamo raccontato questa storia di un connubio praticamente inscindibile, insomma. No, assolutamente non si separa, perché anzi la fabbrica è il sito di Fabriano e sarà proprio un centro esclusivo per la produzione proprio ad alto contenuto di innovazione, di forni da incasso e produrrà anche quelli che oggi sono realizzati in Polonia, cioè si spostano in Italia le lavorazioni ad alto valore aggiunto puntando proprio sulla ricerca, sia sul sito di Fabriano che su quello di Comunanza che su quello di Caserta, riportando in Italia le lavorazioni ad alto contenuto tecnologico e spostando fuori quelle invece a più basso contenuto tecnologico. Certo. Ecco, quindi possiamo dire che questa lunga crisi, che è sembrata drammatica in certi momenti, in realtà oggi possiamo dire che è una crisi di crescita? Sì, Sì, è una definizione assolutamente che condivido, è una crisi di crescita e mi sembra che l'azienda ci abbia messo tutto il suo impegno, perché c'è anche per esempio proprio nell'accordo è previsto che non si ricorrerà ad utilizzo di procedure di mobilità unilaterali fino al 2018, quindi c'è una serie di un periodo di tempo lungo, a parte vincoli, impegni importanti che garantiscono i lavoratori. E soprattutto che mantengono il radicamento nel territorio. Certo, certo che nel momento in cui garantisci comunque l'occupazione, poi è chiaro che ci sono in atto dei contratti di solidarietà, la cassa integrazione, certo. Nel frattempo 330 persone matureranno i requisiti per la pensione, ma è proprio un cambiamento di pelle quello che sta facendo il gruppo, perché Vittorio Merloni mi ricordo che diceva sempre dobbiamo essere i primi in Europa, la Russia è la nostra Cina. Per un lungo periodo questo è stato vero. Adesso probabilmente non basta più, perché poi specialmente nei prodotti a basso contenuto tecnologico e lavabancheria ci sono dei competitori internazionali tipo la Samsung. La Cina, c'è Haier che ha poche quote di mercato in Italia, ma è un concorrente temibilissimo. Da noi ci sono i coreani, ma sono giganti che fatturano oltre 100 miliardi di euro. Quindi diciamo che è un piccolo miracolo, nel senso, con l'accordo dei sindacati, nel senso di fare innovazione tecnologica, trasformare la crisi in opportunità senza perdere la radice nel modello Marche. Assolutamente, questa è una sfida che si giocherà nei prossimi anni, comunque l'azienda deve crescere, questo è l'obiettivo che ha l'amministratore delegato, l'ha detto, hanno dato incarico a un advisor per cercare un partner, sì. E tra 3-6 mesi dovrà venire fuori un piano, un progetto per crescere, perché c'è un problema appunto di costi, di investimenti, di innalzamento di gamma, di innovazione tecnologica e di puntare sull'alto di gamma e poi anche di posizionamento geografico, perché per ora l'azienda è tutta concentrata in Europa, vuol puntare di più un po' anche sul Middle East e sul Nord Africa, però per ora l'Oriente è nello scenario, ma ci sarà sicuramente perché è imprescindibile. Naturalmente. Grazie Nicoletta, grazie mille. Grazie. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll be right back.